Buongiorno. Buongiorno. Oh, io stavo aspettando te che mi rispondessi, perché il tuo buongiorno è fantastico. Siamo pronti questa mattina? Avete preparato le vostre cinture di sicurezza per allacciarle? Tra un po' le allacciamo. Tra un po' le lanciamo. Io voglio condividere con voi questa mattina una storia che andremo a leggere nel libro degli Atti degli Apostoli. Ma prima di arrivare a questa storia, che sarà il fulcro, clou di tutto il messaggio, questi giorni riflettevo su come Gesù, a un certo punto del suo cammino, lui ha preso i suoi discepoli e li ha mobilitati ad alzare i loro occhi, a guardare davanti a loro e a riconoscere che c'era gente intorno a loro che aveva bisogno di salvezza. E li ha mobilitati a fare qualcosa di pratico e di concreto per andare a rispondere a quel bisogno di salvezza che c'era davanti a loro. E tre dei Vangeli hanno registrato questa testimonianza che noi andremo a leggere questa mattina dal Vangelo di Matteo al capitolo 9. E al Vangelo di Matteo, al capitolo 9, a un certo punto del suo percorso, Gesù si ferma e dice così: Gesù percorreva tutte le città e villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora si fermò e disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Questa mattina Gesù vuole alzare il nostro sguardo, vuole aprire i nostri occhi e vuole farci riconoscere il bisogno di salvezza che c'è nelle persone intorno a noi. Apri gli occhi! Dì alla persona accanto a te, gli aplecchi. Vai, vai, vai. Questo è un messaggio interattivo. Non pensate che voi dovete solo ascoltare me. Hai detto gli aplecchi. Ora, gli aplecchi, per quelli che ci seguono su YouTube, è un eufemismo barese che sta ad indicare svegliati, sta ad indicare sii attento, sii allerta. Gli aplecchi. Fatemi sentire, come lo dite? Per tutti quelli che non sono di Bari, che vedono su YouTube i nostri messaggi, come si dice? Fantastico. Ora girati all'altra persona e di che a chiuderli non ci vuole niente. Gliel'hai detto? Gesù vuole aprire i nostri occhi questa mattina, perché insieme noi possiamo andare avanti. Insieme noi possiamo andare avanti. Gesù ci ha chiamato a mobilitarci. Lui ha detto così che noi insieme avanti possiamo conquistare nuovi territori, possiamo vincere e afferrare nuove vittorie per portare la sua salvezza a chi ancora non ce l'ha. Ci piace? Il nostro mobilitarci, questo riflettevo attraverso questo verso, il nostro mobilitarci non è qualcosa che viene da noi stessi. Gesù ha pregato con tutti i suoi discepoli perché io e te, noi oggi ci potessimo mobilitare per iniziare a correre quella gara, per arrivare ad afferrare il motivo per cui Gesù ci ha afferrato. Ci piace? Non è che noi ci siamo svegliati e abbiamo deciso che non avevamo niente da fare e facciamo questa cosa da noi stessi. No, è Gesù. Gesù ha pregato per te, perché tu potessi correre, per portarci a correre la sua corsa, per arrivare nella sua messe, per portare la sua salvezza. Gesù ha pregato perché noi potessimo arrivare a correre la sua corsa, per arrivare nella sua messe, per portare la sua salvezza. Niente ha a che fare con noi. Niente ha a che fare con noi. Tutto ha a che fare con Lui. Tutto. Quello che è la nostra corsa, il nostro mobilitarci, ha a che fare con Lui. Tu stai pregato. E c'è un'operazione mobilitazione, sai, tipo quelle dei film epici, un'operazione mobilitazione che Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, da prima della fondazione del mondo, da eternità passate, eternità future, ha progettato come un piano di salvezza per l'intera umanità. E Gesù, in tutta questa operazione gloriosa e grandiosa, ha pregato per te e ha pregato per me. Ha pregato che tu non potessi ricevere la salvezza e la vita eterna, punto. Ha pregato che tu potessi afferrare e iniziare a correre. Ha pregato che tu potessi essere promotore della sua salvezza per andare nella sua messe e correre la sua corsa. Lui ha pregato che tu potessi essere promotore della sua salvezza per iniziare a correre la sua corsa e andare nella sua messe. Ci piace? Noi stiamo pregati. Non è una cosa che tu ti... A me rilassa. A me rilassa pensare, come abbiamo letto, che Gesù ha pregato per noi. Per questo. Per farci correre. Quindi vuol dire che noi stiamo in buone mani. Vuol dire che non siamo da soli a farlo. Vuol dire che non lo vogliamo fare da noi stessi. Ma vuol dire che Lui è con noi e che Lui vive attraverso di noi e che Lui vuole farlo con noi e che Lui fa il tifo per noi. Lui è come sugli spalti e dice dai, vai, vai. E questa mattina io voglio immergermi con voi in una storia che leggiamo negli Atti degli Apostoli. E mentre ci immergiamo in questa storia che parla di come questi due personaggi hanno iniziato a mobilitare se stessi per correre quella gara posta dinanzi a loro, io prego che noi possiamo ritrovare noi stessi, che noi possiamo sfidare noi stessi attraverso di quella che è la loro esperienza, che possiamo farne tesoro per noi. Ci piace? Volete farlo? Quindi prima di allacciare la cintura, perché è come se stiamo entrando in una navicella del tempo, no? Come un ritorno al futuro, cioè passato, ci alziamo in piedi. Il popolo dei giudei era solito, quando si apriva la parola di Dio, di alzarsi in piedi e di pregare. E di innalzare la parola di Dio e di glorificarla. Ed è questo quello che vogliamo fare noi questa mattina. Stiamo per aprire la sua parola e la sua parola trasforma la nostra vita. E non è quello che io posso dire che trasforma la tua vita questa mattina, ma è quello che noi stiamo per andare a leggere che trasforma la tua vita. Quindi dobbiamo metterci davanti a Lui e dobbiamo chiederglielo. Ci piace? Volete pregare con me? Signore Gesù, vogliamo ringraziarti perché Tu hai dato a noi la Tua parola. Grazie perché la Tua parola è stata segnata per trasformare e cambiare le nostre vite. Grazie perché c'è una testimonianza registrata di quello che è l'opera Tua, di quello che sei Tu che è arrivata a noi oggi per insegnare a noi, per mostrare a noi e per farci andare avanti. E noi vogliamo aprire il nostro cuore questa mattina alla parola Tua, che possa entrare dentro di noi, che possa colpire il nostro cuore, che possa sciogliere ogni legame, che possa trasformare ogni cosa che non va, che possa farci vedere la Tua luce, che possa farci aprire gli occhi, farci alzare lo sguardo e riconoscere quello che è la Tua verità per la nostra vita. È una chiesa piena di fede. Dice? Amen, amen. Vi potete accomodare. Allacciate la cintura. Come quando entrate in macchina, fa cic-cic. È molto importante che vi allacciate la cintura, perché nelle capsule del tempo vieni sballottato. Non so se voi avete mai visto i film dove tu fai il viaggio nel tempo. Sono rischiose. Quindi la cinta ti può salvare la vita stamattina, va bene? Pronti? Stiamo per immergerci. Siete con me? Sullo schermo sarà proiettato Leonardo Montarulo. Questa mattina ha fatto un lavoro eccellente. Ah, facciamogli un grande applauso. Tra l'altro Leonardo si battezza il 28 febbraio, va bene? Quindi tutti qui a fare il tifo il 28. Leonardo questa mattina ha scritto sullo schermo per noi 48 versetti. 48 versetti. È un campione. E sapete perché lui lo fa? Perché noi attraverso la parola proiettata su quello schermo possiamo leggere. E come tu leggi quella parola, come quando sei a casa tua e la leggi sulla Bibbia, quella parola può trasformare la tua vita. Per questo la stiamo leggendo tutta questa mattina. Ci piace? Pronti? Via! Vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta italica. Quest'uomo era pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia, faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio assiduamente. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: «Cornelio!» Egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: «Che c'è, Signore?» E l'angelo gli disse: «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. E ora manda degli uomini a Joppe e fa venire un certo Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite di un tal Simone, conciatore di pelli, la cui casa è vicino al mare». Appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un pio soldato fra i suoi attendenti e, dopo aver raccontato loro ogni cosa, li mandò a Joppe. Il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza verso l'ora sesta per pregare. Ebbe però fame e desiderava prender cibo, un po' come noi quando facciamo digiuno, no? Entriamo nel delirio. Ma mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scendere un oggetto simile a una gran tovaglia che, tenuta per i quattro angoli, veniva calata a terra. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. E una voce gli disse: «Alzati, Pietro, ammazza e mangia». Ma Pietro rispose: «No, assolutamente! Non si ama, Signore! Perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato». E la voce parlò una seconda volta: «Le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure». Questo avvenne per tre volte, poi d'un tratto quell'oggetto fu ritirato in cielo. Ora dovete sapere che il popolo ebraico non poteva, aveva delle prescrizioni molto dettagliate su quello che potevano mangiare e quello che non potevano mangiare, perché molti di questi animali erano veramente impuri e non andavano bene, non facevano bene al loro organismo. Noi oggi abbiamo tante cose che vengono purificate, vengono lavate, vengono gestite, ma allora no. E Dio, che è onnipotente, lo sapeva. Per questo aveva dato delle prescrizioni molto precise. Per questo Pietro ha detto: «Io assolutamente non ho mai mangiato nessuno di questi animali, perché magari poi mi viene il verme, sai il verme, quello, quelli non li mangiamo». Ma mentre Pietro dentro di sé si domandava che cosa significasse la visione, un po' come noi, no? A volte Dio ci dice delle cose nelle maniere strane, noi diciamo: «Vabbè, ma che cosa significasse la visione?» Ecco gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. Avendo chiamato, chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiasse lì. Mentre Pietro stava ripensando alla visione, lo Spirito gli disse: «Ecco tre uomini che ti cercano. Alzati dunque, scendi e va con loro, senza fartene scrupolo, perché li ho mandati io». Pietro, sceso verso quegli uomini, disse loro: «Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui?» Ed essi risposero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, del quale rende buona testimonianza a tutto il popolo dei giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua e di ascoltare quello che avrai da dirgli». Pietro allora li fece entrare e li ospitò. È bello che li ospitati a casa che non era sua, di altre persone, fantastico. Il giorno seguente andò con loro e alcuni fratelli di Joppe l'accompagnarono. L'indomani arrivarono a Cesarea. Ora Joppe e Cesarea erano circa 60 chilometri distanti l'uno dall'altro. Quindi hanno fatto una bella camminata insieme, no? O a cavallo, ora non lo so come andavano, sicuramente non c'era la macchina. L'indomani arrivarono a Cesarea. Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi amici più intimi. Voi immaginate che non è che loro avevano il telefono a dire: «Vedi che sto arrivando, preparati». Cioè, chissà da quanto tempo Cornelio li stava aspettando. Chissà da quanto tempo aveva chiamato tutti i parenti, ma tutti gli amici più intimi, sai, quelli più che ti vengono lì come il picchio qua alla testa, no? Ma Pietro, e mentre entrava, Cornelio, andandogli incontro, si inginocchiò davanti a lui. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Alzati, perché anch'io sono un uomo». Conversando con lui, entrò. E trovate molte persone lì riunite, disse loro: «Voi sapete che come non sia lecito che un giudeo abbia relazioni con uno straniero o entrarsi in casa sua. Ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato. Perciò, essendo stato chiamato, sono venuto senza fare obiezioni. Ora vi chiedo, qual è il motivo per cui mi avete mandato a chiamare? E Cornelio disse, 4 giorni or sono stavo pregando all'ora nona in casa mia, quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente e disse, Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Manda dunque qualcuno a Joppe e fa venire Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite in casa di Simone, il conciatore di pelli, in riva al mare. Sapete quando noi siamo ripetitivi, che raccontiamo sempre le stesse storie? Perciò subito mandai a chiamarti, e tu, Pietro, hai fatto bene a venire. Ora dunque, siamo tutti qui presenti davanti a Dio per ascoltare tutto ciò che ti è stato comandato dal Signore. Allora Pietro, cominciando a parlare, disse, in verità, comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente, gli è gradito. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret. Come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a un legno, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e vuole che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. E ci ha comandato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliavano che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, perché gli udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse, «C'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi?» E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo, e allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Bellissima questa storia. Tanti sono gli insegnamenti che noi possiamo prendere da questa storia questa mattina, ma 3 sono i principi sui quali noi ci concentreremo per imparare dai protagonisti della storia come possiamo andare avanti insieme. Ci siete? Vi piace? Primo principio per andare avanti insieme: mobilitati dal punto dove sei arrivato. Mobilitati dal punto dove sei arrivato. Cornelio era un uomo fantastico. Non so se voi vi siete resi conto nel verso 2. Era un uomo pio, era timorato di Dio con tutta la sua famiglia, faceva molte elemosine al popolo, pregava a Dio assiduamente. Eppure, nonostante lui si trovasse in un buon punto, un punto forse noi dobbiamo lavorare un po' ancora, no? Io non sono uno che prega assiduamente, io prego, però assiduamente, non lo so se posso dire che lo faccio. Era un buon punto, eppure non gli bastava più il punto dove lui si trovava, eppure aveva fame. Forse visto da fuori andava tutto bene. E forse andava tutto bene, ma aveva fame di qualcosa di più. Non poteva più accontentarsi di essere timorato di Dio e di operare giustamente. Aveva bisogno di muoversi dal punto in cui lui era arrivato per incontrare Gesù, il suo Salvatore. Se fosse rimasto dove era e non avesse ascoltato quello che la visione gli diceva, lui non avrebbe incontrato Gesù. Se non si fosse mosso ad andare a cercare Pietro, lui non avrebbe incontrato Gesù. avrebbe fatto tutte le belle cose che continuava a fare, tutte le buone cose che continuava a fare, ma avrebbe mancato il Salvatore, che aveva il potere di cambiare la sua vita per sempre. Così siamo noi a volte, no? Pensiamo di aver lavorato così tanto per raggiungere il punto dove siamo arrivati, abbiamo sudato assai. Ah, mo siamo arrivati qua. Mo stiamo bene. Basta. Non ci possiamo muovere più. Ci siamo seduti, tante conquiste, tante liberazioni, tante guarigioni. Non siamo visti assai. Mo basta. No. No. Non mancare il Salvatore. Non mancare Gesù che ti sta aspettando al di là del tuo muoverti. Dall'altra parte abbiamo Pietro. E Pietro aveva sperimentato miracoli, opere potenti, guarigioni. Voi dovete immaginare che solo un capitolo prima, al capitolo 9 degli Atti, è registrata la testimonianza di come Pietro, ripieno di Spirito Santo e attraverso lo Spirito Santo, riesce a guarire un paralitico e riesce a far risorgere Tabita. Cioè, questa era morta, lui arriva e le risorge, perché lo Spirito Santo era con lui. Quindi anche lui era arrivato a un buonissimo punto. Era arrivato a un punto fantastico. Io non ho ancora fatto risorgere nessuno attraverso della potenza dello Spirito Santo. Eppure il punto dove Pietro era arrivato era un po' questo. Ci sono persone e persone. Sì, ho fatto opere potenti, però ci sono persone e persone. Ci sono quelli impuri, ci sono quelli contaminati, quelli per cui la croce di Gesù non ha valore, non può arrivare, non vale. Ma Dio lo sfida. E Pietro si mobilita dal punto in cui si trova fino ad arrivare a dire nel verso 28 che abbiamo letto che voi sapete come non sia lecito che un giudeo abbia relazioni con uno straniero ed entrasse in casa sua, ma Dio ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato. Si è mobilitato da quello che era il suo pensiero, da quello che era la sua abitudine, da quello che lui aveva visto fino a quel giorno, per arrivare a dire qualcosa che era diverso da quello che lui avrebbe mai potuto pensare. E al verso 34 continua, e l'abbiamo letto, e dice: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali. Ora comprendo che Dio non ha riguardi personali. Pietro non ha rifiutato quello che Dio gli stava mostrando. Non rimanere fermo nel punto dove sei. Perché noi stiamo andando avanti insieme. E tu sei parte di noi. Noi siamo insieme. E insieme stiamo andando avanti. Tu non puoi rimanere fermo. Che cosa è che ti blocca? Che cosa è che ti frena? Che cosa è che ti lega? Perché sei fermo? Questa mattina apri il tuo cuore allo Spirito Santo. Perché Lui ti vuole dare rivelazione, Lui ti vuole dare liberazione e Lui ti vuole dare guarigione. E lo Spirito Santo è qui adesso e Lui vuole farlo e Lui ti vuole fare capire tutto questo. Noi ci muoveremo sempre, andremo sempre avanti. Noi ci muoveremo sempre insieme, andremo sempre avanti, perché la messe è grande e noi non possiamo rimanere fermi. È grande la messe, noi dobbiamo muoverci. È questo quello a cui Dio ci ha chiamato. Ad andare a tutte quelle persone che non ce l'hanno, che non lo sanno, e dirglielo, e condividerlo, e correre la sua corsa, ed andare nella sua messa, e portare la sua salvezza. Noi non ci possiamo fermare. Tu non ti puoi fermare. E Gesù non vuole che tu ti fermi, perché Lui ha pregato il Signore della messe che tu possa essere quell'operaio che va nella sua messa. Gesù ha pregato per noi, per mobilitarci dal punto in cui ci troviamo. Gesù ha pregato per noi per mobilitarci, direzionati nel punto dove Lui ci vuole portare. Questa mattina scegli di mobilitarti direzionato nel punto dove Gesù ti vuole portare. Tante erano le scelte che Cornelio poteva fare. Da uomo timorato di Dio avrebbe potuto fare tantissime scelte. e lui era anche un ufficiale romano. Questo vuol dire che lui, proprio lui, non avrebbe la scelta più improbabile che lui poteva fare era invitare un seguace del re dei re, del signore dei signori, Gesù Cristo, sovrano su tutta la terra, a casa sua. Cioè lui stava invitando Pietro, che era il discepolo di Gesù, che era il re dei re. Ora, sicuramente il suo datore di lavoro, l'imperatore romano di quel periodo, sicuramente l'avrebbe saputo che Pietro era andato a casa sua e sicuramente non sarebbe stato contento, perché l'imperatore romano era lui il re di Cornelio, era lui il signore di Cornelio, era lui quello che Cornelio doveva ascoltare. Non poteva avere niente a che fare Cornelio con quello che è Gesù, con quello che sono i suoi seguaci, perché l'unico seguace che doveva seguire era l'imperatore. Ma c'era una salvezza che doveva arrivare e che doveva entrare in casa di Cornelio. C'era una salvezza che doveva arrivare e doveva entrare nella sua casa, e questo comportava un prezzo da pagare, che tutti erano disposti a pagare. Tutti erano disposti. L'abbiamo letto nel verso 7 e nel verso 8, i suoi domestici, i suoi soldati, nel verso 24, i suoi parenti, i suoi amici più intimi, quelli più no, che tu se devi invitare Gesù, sicuramente dici, no, quello, no, quello non lo invitiamo. Tanto quello non lo vuole vedere, quello subito andrà a fare la spia. Quante me ne diranno che ho rovinato la famiglia da generazioni, centurioni della corte dell'imperatore, sono arrivato io, ho rovinato tutto. No, era un prezzo che tutti hanno deciso di pagare. Insieme hanno deciso di andare avanti nella direzione comune che Gesù aveva indicato loro. Insieme hanno deciso di pagare quel prezzo, di andare avanti e di riconoscere Gesù. Nel verso 23 leggiamo, e nel verso 45 invece leggiamo come insieme Pietro con alcuni fratelli di Ioppe e tutti i credenti circoncisi che poteva trovare in quel posto non si sono rifiutati di correre nella direzione che Gesù gli aveva indicato. Insieme sono andati. Una direzione rischiosa? Certo, anche loro sapevano il prezzo che avrebbero dovuto pagare. Perché al verso 28 Pietro l'ha detto, non è lecito per un giudeo avere relazioni con uno straniero di entrare in casa sua, perché i giudei, sempre secondo le prescrizioni che avevano dalla legge mosaica, non potevano mischiarsi con questi pagani, con questi romani, con questi italiani, con queste persone che non venivano dalla discendenza di Abramo. Lui non poteva entrare in casa di questi. Perché doveva entrare in casa di questi? E infatti, poi nel capitolo 11, vediamo come gli apostoli gli hanno fatto le paranoie. Come? Tu Pietro, sulla tua piede, su di te dobbiamo edificare la chiesa, vai a casa di Cornelio. Il centurione romano che va dietro all'imperatore, cioè sei un po' così. Eppure Dio aveva concesso il ravvedimento anche agli stranieri affinché avessero vita. Lo leggiamo in Atti 11:18. Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri affinché abbiano vita. Tutti gli apostoli si sono uniti insieme con lui nel riconoscere la direzione che Gesù voleva dare e che Dio stava dando ai discepoli. E quel giorno a Cesarea la storia è cambiata. Quel giorno in quella casa di Cornelio la storia è cambiata. E noi italiani siamo stati i primi stranieri ad essere battezzati. Non a sentire parlare di Gesù, ad essere battezzati. Se Pietro non fosse entrato in quella casa di Cornelio e non avesse permesso allo Spirito Santo di scendere, forse noi non staremmo qui oggi. Forse tu non staresti qui. Dove stiamo andando? Dove stai andando? Che cosa stai seguendo? Le tue emozioni? I tuoi sentimenti? Le tue paure? Tante sono le direzioni che tu puoi prendere davanti a te per mobilitarti da dove ti trovi a dove puoi arrivare. Ma scegli di seguire Gesù. Corri quella gara che lui ha precedentemente preparato per te, perché lì avrai la vittoria. Perché Gesù ti vuole fare vincere. E tante volte io vedo noi che corriamo una gara e abbiamo paura di perdere. Perché forse sono i nostri sentimenti, forse sono le nostre emozioni che ci stanno guidando e forse è quello che stiamo seguendo. Se tu scegli di seguire Gesù, in Lui tu hai vittoria. Noi scegliamo di correre insieme perché insieme capiamo la direzione per andare avanti. Non correre da solo. Noi scegliamo di correre insieme perché insieme impariamo anche dalla testimonianza di queste due persone che riusciamo a capire la direzione che Gesù ci vuole dare davanti. Mobilitati dal punto dove sei arrivato, mobilitati direzionato nel punto dove Gesù ti vuole portare. Terzo principio, mobilitati con Gesù. Sembra così logico, ma poi diventa così illogico. Non vivere da solo la gara che è posta davanti a te. Non fare che inizi a correre nella direzione che Gesù ti ha indicato e poi fai da solo. E poi pensi che ce la puoi fare da solo. Non ce la puoi fare. Ed è qui che noi entriamo in tilt. Perché Gesù ci fa sognare grande. E noi diciamo, sì, io non voglio seguire i miei sentimenti, non voglio seguire le mie emozioni, voglio sacrificarmi, voglio correre per te. E iniziamo a correre. E poi correndo e correndo e correndo ci dimentichiamo che Gesù è con noi. E non ce la facciamo più. E ce ne andiamo in tilt. Perché forse non possiamo correre. Perché forse non è questa la corsa che dobbiamo fare. Perché forse non ce la facciamo a fare questa corsa. Perché forse non siamo adatti per fare questa corsa. Perché forse non siamo degni di fare questa corsa. La verità è che è vero. Tu non sei degno di correre la sua corsa. Tu non sei degno di andare nella sua messe. Tu non sei degno di portare la sua salvezza. Io non lo sono. Io non sono degno questa mattina di dirti queste cose. Io ho bisogno di Gesù. Perché Lui ha scelto comunque di farlo con me e con te. E noi abbiamo bisogno di Lui. È normale che non ce la facciamo senza di Lui. È normale che non possiamo farlo senza di Lui. Abbiamo bisogno di Gesù. Stai andando con Gesù dove Lui vuole farti arrivare? Oppure te la stai vedendo tu da solo? Cornelio e Pietro lo avevano capito molto bene questo. E non avevano tempo da perdere. Nessuno dei due. C'era una salvezza da afferrare da parte di Cornelio e c'era una salvezza da predicare da parte di Pietro. E loro erano determinati nell'afferrare quella salvezza e nel predicare quella salvezza. Ed è incredibile come senza conoscersi loro abbiano fatto squadra. Loro non si erano mai visti, non sapevano neanche chi erano l'uno con l'altro. Hanno fatto squadra. Nel verso 33 lo leggiamo, dice: ordunque siamo tutti qui presenti, Cornelio dice, ordunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per ascoltare tutto ciò che ti è stato comandato dal Signore. E Pietro nel verso 47 dice, c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? Hanno fatto squadra, si sono visti e hanno fatto squadra perché? Perché Gesù era con loro. E Gesù li ha uniti. Quando noi corriamo la corsa che Gesù ci ha posto dinanzi e corriamo con Gesù, Gesù ci unisce. E quelle che fino ad allora erano sembrate due corse diverse e parallele, direzionate in punti diversi, si sono ritrovate nella stessa corsia, a correre insieme e nella stessa direzione. Quello che era stata la visione che Cornelio aveva avuto di mandare a chiamare qualcuno, quella che era stata la visione che Pietro aveva avuto di mangiare cose impure, quello che era stato il loro percorso diverso, senza sapere che si sarebbero incontrati, a un certo punto si è ritrovato nella stessa corsia e si sono ritrovati a fare squadra. E quell'unica direzione che loro stavano correndo comune era Gesù e la sua salvezza. Invito il gruppo Lode a venire avanti, a venire sul palco. Avanti insieme. Non possiamo andare dove Gesù ci vuole portare senza che lui venga con noi. Non lo possiamo fare. E quando uno cade, l'altro lo rialza. Per questo siamo insieme. E quando io mi posso dimenticare, mentre sto correndo, preso dalla corsa, preso dal sogno, preso dai desideri, e corro, e corro, e corro, e mi dimentico che Gesù è con me, tu me lo puoi ricordare. E quando io non ce la faccio più, tu mi puoi aiutare. Insieme possiamo andare avanti e correre e afferrare quello per cui noi siamo stati già afferrati da Cristo Gesù. Quando Gesù ha pregato per operai nella sua messe, lui ci ha afferrato e ci ha lanciato a correre il motivo per cui lui ci ha afferrato. Insieme possiamo alzare il nostro sguardo. Insieme possiamo aprire i nostri occhi e riconoscere il bisogno di salvezza che è intorno a noi e vedere che quei campi biancheggiano. Vedere che quei campi biancheggiano perché la messe è veramente molto grande. È molto grande davanti a noi. Dobbiamo solo alzare i nostri occhi dal punto dove siamo arrivati, guardare dove Gesù ci vuole far arrivare, sapere che Lui è con noi e iniziare a correre. E stiamo pregati. Stiamo pregati. Cioè, stai in una botte di ferro, come si dice. Andrà bene, vincerai, perché quella è la sua messe, quella è la sua corsa e quella è la sua salvezza. E tu non lo sai fare, ma è Lui che lo fa. Sì? Lo vogliamo fare? Alziamoci in piedi. Voglio pregare. Voglio pregare per noi, voglio pregare per quello che è la parola che Gesù ha messo nel tuo cuore questa mattina. E voglio dichiarare che Lui è sovrano e che Lui è con te. Se sei tu questa mattina che dici io voglio iniziare a correre, io mi rendo conto che devo fare qualcosa, lascia andare il tuo cuore in questo momento. Stiamo per andare davanti alla presenza del Re dei Re e Lui è degno. Chiudiamo i nostri occhi, alziamo le nostre mani in segno di arresa a Gesù e confessiamo il suo nome sulle nostre vite. Signore Gesù, noi vogliamo dichiararti Re, noi vogliamo dichiararti sovrano, noi vogliamo ringraziare. Vogliamo ringraziare il tuo Santo Spirito che è con noi in questo momento, che può aprire il nostro cuore in questo momento a ricevere quello che è stata la tua sfida di questa mattina. E noi vogliamo dichiarare, Signor Gesù, che noi non siamo capaci di poter correre, che noi non siamo idonei a poterlo fare, ma tu hai scelto per noi di potercela fare. Noi vogliamo confidare in te, vogliamo gettare ogni cosa ai piedi della tua croce, vogliamo spogliarci completamente di quello che noi siamo e vogliamo dichiararti Re, vogliamo dichiararti sovrano, vogliamo che tu sia con noi, Signore Gesù, vogliamo correre quella corsa che tu ci metti davanti. Non vogliamo correre da noi stessi, non vogliamo correre da soli, ma vogliamo correre con te insieme per andare avanti in quello che tu hai preparato e vogliamo onorarti, Signore Gesù. Vogliamo dichiarare il tuo nome sulle nostre vite, vogliamo dichiarare il tuo nome su quello che è il tempo che ci sta davanti. Vogliamo innalzare te, Signore Gesù, perché tu sei degno di essere lodato, tu sei degno di essere innalzato, tu sei degno di essere glorificato e la nostra vita appartiene a te. E con un cuore pieno di fede vogliamo dirti che ti amiamo, Signore Gesù, e che vogliamo correre quella gara che tu ci hai posto davanti. Nel tuo nome, Signore Gesù. Amen.